Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana in questo lunedì 4 di gennaio, ancora per pochissime puntate, attenti noi due, solo con Oscar Giannino, e aspettiamo il ritorno del mio compare Alessandro Milan, ma naturalmente noi siamo qui con voi per tentare, dopo la segna stampa, di fare un po' di commenti riepilogando alcune delle notizie che ci sono sui giornali questa settimana, che è ancora una settimana in realtà di coda festiva, perché moltissimi a quanto pare, io leggo, essendo alla sbarra a lavorare come tanti altri, però è ancora una coda festiva perché moltissimi italiani, pare di uno su due addirittura, dicono alcuni, approfittano ancora di questi giorni di ponte per la Befana. Quindi in questa coda festiva vediamo un pochino su che cosa vi chiediamo di riflettere un pochino insieme a me sulle notizie del giorno, e vi dico subito su cosa telefonarci se volete, siete pronti all'800 24 00 24, mentre 349-238-6666, lo sapete, ci mandate gli sms. Allora, i temi che sui quali raccogliamo volentieri le telefonate, riepilogando un po' quello che è successo da inizio dell'anno, sono in particolare due, e cioè la domanda è: ma vi è veramente piaciuto il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di inizio anno? È piaciuto a molti che sono critici di Renzi, perché? Perché in particolare Mattarella, sospeso, un po' atemporale, senza, con un messaggio che poteva essere buono per tutti i tempi e per tutti gli usi, senza citare il governo, ecco, a molti critici di Renzi è piaciuto proprio perché non sposava l'ottimismo del governo, non citava la riforma del governo e così via. A me in particolare non è piaciuto un passaggio, per il resto rispetto altissimo per il capo dello Stato, però a me non è piaciuto quando ha tirato fuori la solita storia degli evasori fiscali, 122 miliardi di evasione e così via, che va bene perché contro l'evasione bisogna combattere, ma non va bene dimenticarsi a quel punto di criticare l'eccesso del sistema fiscale italiano, sia delle procedure che degli adempimenti che delle sue pretese in termini di aliquota e di gettito totale. Restiamo un paese con il 49% del PIL di entrate totali pubbliche. Non mi è piaciuto perché un luogo comune da parte del capo dello Stato di queste proporzioni non me lo aspetto. Però vi è piaciuto? Oppure telefonateci anche su un'altra questione, perché l'inizio dell'anno è ancora sui giornali di oggi, come vedremo, costellato di polemiche per come la RAI l'ha festeggiato. Questo capodanno con cui la RAI si è festeggiata il 2016, in cui avrà molte centinaia di milioni di euro in più in realtà da noi tutti grazie al canone in bolletta, e l'ha festeggiato in una maniera sgangheratissima. Io devo dire la verità, dopo tre giorni mi aspettavo una richiesta di scuse agli italiani da parte dell'amministratore delegato della RAI Leopoldino, cioè perché frequenta Leopoldo, il presidente del consiglio Campo dell'Orto, proprio perché la considero una persona per bene, preparata. È stato un inizio l'anno così sgangherato per via degli sms con gli insulti, per via del contrarovescio sbagliato, per via di quello che poi abbiamo appreso, che la nuova RAI è lì per 5 anni a Matera con un contratto di 2,9 milioni di euro che pagano i cittadini della Basilicata dal proprio bilancio, quindi non proprio una cosa gratis et amore dei o a spese contenute. E di fronte a tutto questo le scuse invece non sono venute. Vi ha sorpreso questa cosa oppure no? Vi è piaciuto questo inizio d'anno? È davvero il segno di questa RAI così rinnovata che vi hanno venduto per il canone in bolletta? Ecco, ma in realtà poi avremo due ospiti più avanti per parlare di un problema, quello sì, serissimo, che diventa da serio a serissimo sempre di più, che riguarda i conti della regione Sicilia, perché la regione Sicilia ha chiuso l'anno con l'esercizio provvisorio del suo bilancio. Quindi avremo con noi l'assessore all'economia della regione Sicilia Alessandro Baccei e un collega di Repubblica Emanuele Lauria, e da questo punto di vista se volete chiamarci appunto dalla Sicilia per dirci che cosa ne pensate, di questa autonomia speciale che continua a essere per me, ma mi sbaglio, sarò minoritario, uno scudo di dissipazione. Magari voi la difendete, però in realtà le cose vanno di male in peggio. Siamo, lo ricordo, alla quarta giunta crocetta. Ecco, telefonateci su questo se volete, ma vediamo un pochino sui giornali, in attesa dei nostri ospiti, dell'inizio delle vostre telefonate sul Capo dello Stato, inizio dell'anno della RAI e Sicilia, che cosa c'è sui giornali di oggi che ci ha colpito di più. Ovviamente sui quotidiani stamattina c'è gli sviluppi dal punto di vista internazionale dello scontro Iran-Arabia Saudita, che segna un nuovo sviluppo tragico che secondo me consegna all'ISIS un futuro lungo, perché come si vede l'avversione della potenza sciita, cioè Teheran, che ha in campo uomini con le proprie brigate di Pasdaran e gli uomini di Hezbollah che fanno riferimento appunto a Teheran in Iraq e in Siria da una parte, e dall'altra la monarchia del Saud, dell'Arabia Saudita, quindi stiamo parlando dell'Islam sunnita, è ben lungi dall'essersi non solo composto, ma vedrete che nel 2016 diventerà sempre più duro, perché è un scontro di egemonia di potenza in tutto il Medio Oriente, uno scontro che ha a vedere col petrolio, visto che l'Iran riprende la produzione dopo l'accordo con gli Stati Uniti e con le potenze occidentali, che ha isolato il problema dalla sua ricerca nucleare e gli ha levato le sanzioni. E vedrete che questo tema, che i giornali di oggi continuano a sviluppare informando tutti i loro lettori sui particolari dello scontro, siamo alla rottura delle relazioni diplomatiche, le due capitali hanno ritirato ciascuno i propri rappresentanti nell'altrui capitale, sarà uno dei segni purtroppo tragici, secondo me, io uso apposta questo aggettivo senza esagerare, del 2016. Ma se veniamo alle vicende italiane, le vicende italiane vedono in particolare un paio di vicende molto importanti. Oggi il Presidente del Consiglio metterà il cappello, per così dire, a Milano, alla presentazione in borsa all'inizio dell'anno borsistico, perché metterà il cappello sulla quotazione autonoma di Ferrari rispetto a Fiat Chrysler, e approfitta di questo il Presidente del Consiglio per rilasciare un'intervista alla Stampa, al quotidiano che è diretto da Maurizio Molinari da qualche giorno, perché Calabresi, il direttore della Stampa, diventa direttore di Repubblica, e rilascia un'intervista alla Stampa, Matteo Renzi, che risponde a molte polemiche della sua conferenza stampa di fine anno. Il titolo dell'intervista dice tutto: basta con l'ansia dei compiti a casa, l'Europa ci rispetti, basta se l'Unione Europea ci dice che non posso dare gli aiuti di Stato all'Ilva, l'Unione Europea, dice Renzi, vuole fare fallire l'Ilva, ma noi non lo accetteremo mai. È l'Unione Europea che vuole fare fallire l'Ilva o è l'Italia che lo ha sequestrato senza indennizzo ai privati e da tre anni in realtà non ha più idea di come farla andare avanti? L'Ilva perde dai 60 ai 100 milioni di euro al mese, nel frattempo abbiamo aumentato del 25% le importazioni di laminati piani dal resto del mondo, in particolare dall'India e dalla Cina, e sono state annunciate per due volte cessioni a privati che non si sono mai realizzate, perché i privati in queste collezioni non si faranno mai avanti. La colpa adesso, secondo Renzi, diventa dell'Europa. Però insomma, nell'intervista ci sono questi altri punti, in particolare vi leggo una frase che mi ha molto colpito, perché il refrain sta diventando che adesso noi stiamo facendo le riforme meglio di quelle tedesche, più rapidamente di quelle tedesche. E allora dice il Presidente del Consiglio: quello che non mi piace qui da noi è una subalternità psicologica che ormai trovo surreale nei confronti della Germania. Allora, io veramente sfido chiunque a indicarci chi nella politica italiana si senta subalterno ai tedeschi perché ne vuole emulare le riforme, perché non ne trovo uno, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Però insomma, questo è il tono dell'intervista del Presidente del Consiglio, ed è un tono che fa riferimento anche in realtà all'altra vicenda che ieri improvvisamente nel pomeriggio ha infiammato le redazioni, che oggi trovate sui giornali, e cioè l'interpretazione della distanza dai numeri del pre-crisi di quanto i diversi euromembri, paesi euromembri, hanno recuperato o meno nelle rispettive economie, sulla produzione industriale, sugli occupati, nell'occupazione giovanile. E i dati sono dell'Eurostat, però in realtà sono stati elaborati dallo stesso governo, da chi al Ministero dello sviluppo, al MISE, elabora mensilmente una specie di cruscotto dell'economia italiana, solo che il loro rilascio ieri ha fatto avvampare le redazioni. Perché? Perché che cosa avviene? Avviene che questi numeri comparati fanno giustizia della pretesa ripresa italiana, che sarebbe la più forte, la migliore in Europa, perché noi, come dice il Presidente del Consiglio, stiamo facendo la riforma alla tedesca più rapidamente, in maniera più efficiente dei tedeschi. E peccato poi che uno vada a vedere e trova che dal pre-crisi l'Italia, che aveva perso fino a 31 punti di produzione industriale rispetto al 2007-2008, ne ha ripresi solo il 3%, e quindi noi continuiamo ad avere a essere indietrissimo sulla produzione industriale, mentre naturalmente questo non avviene in nessun altro paese, perché la Germania e la Francia hanno ripreso molto molto molto di più. Che cosa avviene? Avviene che è difficile immaginare se, cito un altro dato, l'occupazione giovanile, cioè tra i 15 e i 24 anni, è al 15,1%, mentre in Germania è al 43,8%. Ecco, un po' difficile immaginare che sia colpa dell'Europa e colpa dei tedeschi, o no? Non vi pare? A me pare di sì. Allora, come reagisce la stampa italiana di fronte a questi numeri? Il Corriere della Sera reagisce dicendo: beh, non bisogna più fare il paragone col 2008, iniziamo a farlo con il 2010. A me pare, devo dire la verità, con grande rispetto per i colleghi del Corriere della Sera, una maniera un po' comoda per mettere le cose, perché non si veda la differenza troppo netta con quello che il governo dice e le cose come stanno. Lo dico con sincerità, perché se noi facciamo il confronto internazionale, infatti, sul 2010 e non più sul 2008, di cui vi ho prima ricordato i numeri sulla produzione industriale, ecco che sì, rispetto al 2010 uguale 100, è vero che la Francia sta comunque meglio perché ha superato il livello del 2010, la Germania ha preso 8 punti in più, però noi siamo solo al 92,9%, cioè saremmo solo al meno 7,1% rispetto al 2010, no? E non più al meno 28% rispetto al 2007-2008. A me questa maniera di cambiare gli indicatori di riferimento per far sembrare più indorata la pillola al lettore mi sembra, a dire la verità, una maniera sbagliata di rappresentare i numeri dell'economia. C'è poi chi, come il Messaggero, di fronte a questo fa addirittura un'altra scelta. Sul Messaggero il consigliere del governo, parliamoci chiaro, è uno dei più principali aedi italiani del fatto che noi siamo meglio di tutti e l'Europa è cattiva a contestarci, cioè Marco Forte, si inventa oggi una metrica degli indici base di riferimento macroeconomici monitorati dalla Commissione Europea, che in realtà sono 11, però lui li fa diventare 110 perché sono per 10 anni e per tutti gli euromembri, e con questo criterio, con tutti gli euromembri, lui somma le violazioni di qualcuno di questi 110 in questi anni e li conta solo come violazione di uno 0, come se fosse, basta uno 0,1 a testa, senza quindi tenere più conto del fatto che noi li violiamo a volte, come nel caso del debito pubblico, di 60-70 punti e non di 0,1, per dire alla fine che la Germania ha violazioni europee come l'Italia. Allora, a me, capite, questa disinvoltura statistica per affermare tesi politiche, secondo me, è l'espressione di un paese che gioca con i numeri e che confonda le idee in testa alla gente. Questa è la mia idea. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, con grandissimo rispetto per Marco Forz, che è uno studioso dell'economia industriale, che ha il grande merito di aver elaborato degli indicatori del commercio mondiale di fronte ai quali io mi inchino, che considero una persona serissima, molto documentata, però è un consigliere del governo e si vede, infatti, e soprattutto in questo caso secondo me rende un pessimo servizio sia alla statistica che ai lettori del Messaggero, con i quali io collaboro, quindi rischio molto a dire queste cose, però la mia opinione è che bisogna dire le cose chiare come stanno. Allora, ci sono tanti altri temi sui giornali, butto lì su alcune pillole perché poi andiamo in pubblicità e prendiamo qualche telefonata e iniziamo con i nostri ospiti. Mi ha molto colpito per esempio le parole del giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Taranto, che a proposito della condizione della giustizia civile, dovendo giustificare perché una causa civile la tratterà non prima del 2019, ha scritto che in Italia non esiste la schiavitù secondo la Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi lui prima del 2019 non è in condizione di scriverla, e arrivederci e grazie. Questi sono i toni usati dai giudici nel nostro paese, ma naturalmente noi siamo molto avanti nelle riforme. Oppure ancora a Napoli la protesta dei becchini che hanno fermato, in questo caso è La Stampa a riferirlo, hanno fermato le sepolture perché vogliono chiarezza sul prossimo bando per affidare i servizi, e quindi nel frattempo non si seppellisce chi è morto, e va benissimo. Oppure Pompei, dove la giunta di Pompei a guida PD dice no alla nuova stazione ferroviaria perché è troppo vicina agli scavi, non va bene per i turisti, la città pensa che debba venire prima il resto di Pompei e non i turisti agli scavi. Benissimo, dopo che avevamo annunciato che erano risolti i problemi degli scavi a Pompei. E chiudo queste prime segnalazioni con uno dei temi che poi ci ricollega agli ospiti. Ecco, cioè stiamo parlando, Corriere della Sera a segnalare e Sergio Rizzo a scrivere, i disastri della riscossione fiscale in Sicilia. Anche il 2014 si chiude con un disavanzo record che la Regione Sicilia deve ripianare di Riscossione Sicilia, la società che appunto ha l'appalto della riscossione tributaria nella regione e che appartiene alla regione per il 99%, per Equitalia allo 0, qualcosa per cento, milioni e milioni di perdite, e la riscossione è scesa del 16,7% rispetto all'anno prima, del 31,7% a Palermo. E poi vi chiedete perché gli italiani fanno la fila per andare a vedere i film di Zalone, che sta battendo tutti i record, e naturalmente Adriano Celentano sul Corriere della Sera non riesce a resistere all'ingordigia di dire quanto sono contento che Zalone in realtà mi cita e mi consiglia, era un suo punto di riferimento. Allora, pubblicità, poi iniziamo con le telefonate e andiamo ai nostri ospiti. Ed eccoci tornati qua in diretta, attenti a noi due, in versione me ristretta, ma ancora per poco, Alessandro sta tornando, Alessandro Mina sta tornando, non vi preoccupate, 8.34 primi 18 secondi. Iniziamo con qualche telefonata di qualcuno di voi. Abbiamo chiamato la telefonata non solo ricordando che poi andiamo ai problemi del bilancio, ahimè disastroso, della Regione Sicilia, che è in esercizio provvisorio, ma vi avevo chiesto l'opinione anche su due vicende dai cui code e polemiche sono sui giornali ancora, cioè il messaggio di fine anno al capo dello Stato, in particolare sulle tasse, ma non solo, e poi il disastroso festeggiamento di inizio d'anno della RAI, che pure ha un 2016 con chi dice 200, chi dice 400 milioni di euro in più grazie al canone in bolletta, ma che ha iniziato in maniera disastrosa. Allora iniziamo con Giovanni, che ci chiama da Treviso. Giovanni, prego, su Mattarella mi dicono? Sì, buongiorno Giannino. Buongiorno. Sì, esattamente, su Mattarella. Io ho ascoltato con attenzione il messaggio e onestamente ho trattenuto le risate, con tutto il rispetto che ho per il Presidente della Repubblica, ma è stato veramente, veramente molto difficile. Un messaggio brevissimo, secondo perché me. Perché dice le risate? No, perché è stato una cozzaglia di luoghi comuni enorme, enorme, e mi meraviglio che venga utilizzato soprattutto da alcuni organi di stampa e di informazione il termine populismo solamente quando ha pronunciare certe parole o ad affrontare certi argomenti siano certi politici e non invece altri parti politiche. E che ci vuole fare? Ci sono alcune parti politiche che sono, per così dire, più autorevoli per definizione. Ecco, vabbè. Io l'ho trovato veramente un insieme di luoghi comuni e di un perbenismo e di una faciloneria veramente esagerata. Va bene, allora Giovanni si iscrive alla minoranza insieme a me, per così dire. Mario da Imperia, mi dicono sempre su Mattarella. Mario, buongiorno, prego. Buongiorno Giannino. Io volevo dire, partire anch'io dal Capo dello Stato e ripetere quello che ha detto questo ascoltatore che mi precede. Praticamente è un continuo vaniloquio, ma allarghiamoci un po', quindi il Capo dello Stato, questo e quelli precedenti, parlano di cose banali, luoghi comuni che anche nei bar sport chiunque ne può parlare, anzi meglio di lui. Quindi lui che potrebbe essere super partes dovrebbe tuonare contro tutto e contro tutti applicando l'articolo 87 della Costituzione e andatevela a leggere. E allora c'è un vaniloquio che si allarga a tutti i politici, un'ipocrisia, una bassezza morale, ma anche lei Giannini, cioè dico lei in generale, ma questo parlare continuo della economia, questo PIL, lo 0,7, lo 0,8, ma non vi rendete che queste, se non si risolvono prima le grosse, i cancri veri della nazione, che sono la corruzione, la mancanza di cultura, di filosofia politica, ma vi rendete conto che nei millenni hanno tentato, chi voleva migliorare lo Stato non parlava né di destra né di sinistra, neanche d'economia. Aspetti un secondo, perché non è che basta un Platone e c'è la Repubblica dei Filosofi, perché l'economia significa quanti centinaia di migliaia di italiani hanno perso un lavoro, quante migliaia di imprese non ci sono più e così via. Non è che stiamo parlando di idee teoriche, stiamo parlando di una mala realtà. Anzi, secondo me, ribadisco la mia opinione solo, rispettando il punto di vista di tutti, che bisogna trattare i numeri con più rispetto, invece che inventarsi delle metriche ciascuno a modo suo, perché adesso è diventato di moda dire che se ci ricordiamo di quanto siamo distanti dal 2008 facciamo un favore ai tedeschi. Ah, è una roba che io non riesco a capire, naturalmente la mia opinione questa. Anna da Roma, Anna prego. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Io ribadisco che lei dovrebbe stare al governo. No, assolutamente comunque. Volevo sottolineare che quello che hanno detto i due precedenti, io lo sottolineo, asserisco le stesse identiche cose. Sì. Volevo un secondo parlare di quel povero Cucchi. Ah, del caso all'epoca Cucchi. Quando lui fu arrestato, sì, un giornalista di Sole 24 Ore intervistò il padre, sì, appena il ragazzo morì. Il padre rispose: mio figlio non lo vediamo da mesi, è un drogato perso, col tono così. Dopodiché sta sorella Giovanna d'Arco, che si becca i milioni, trova gli avvocati. No, si becca i milioni in causa, si adesso addirittura mette su Facebook la faccia del carabiniere. Non lo so, vuole un seggio politico, diamogli tutto quello che vuole, basta che allora la... la signora è molto critica. Noi abbiamo ospitato insieme ad Alessandro oramai circa tre settimane fa la storia di Cucchi e l'avvocato Cucchi, quando ci sono stati sviluppi nuovi. Nel frattempo, da allora, avete visto le intercettazioni e anzi la deposizione di una ex moglie di uno dei carabinieri che ha telefono allora, rispetto al tempo dei fatti, dice ti sei vantato con tutti di averlo picchiato insieme ad altri colleghi e così via. Prima polemica sui giornali in questi giorni festivi, seconda polemica freschissima perché ieri Ilaria Cucca appunto ha pubblicato sul suo Facebook una delle fotografie di questi carabinieri. Io condivido quello che ha detto la nostra ascoltatrice sul fatto che secondo me Ilaria Cucchi quella fotografia faceva non bene ma benissimo a non pubblicarla, proprio perché si deve guardare lei per prima dall'utilizzare criteri di giudizi tanto al chilo. Questa è la mia opinione e sul Corriere della Sera la trovate sostenuta oggi in prima pagina da Giusy Fasano, Cucchi e la foto del carabiniere. Detto questo, a differenza della signora, invece io considero che si debba andare avanti con tutte le indagini del caso, perché credo che sul caso Cucchi, mi dispiace ancora, la verità noi non la sappiamo, e in particolare questi nuovi piste sulle ipotesi che siano stati i carabinieri a malmenarlo hanno secondo me uno spessore giudiziario che ci deve indurre, per senso di giustizia, a percorrere quelle strade. Chiuso il capitolo anche purtroppo delle vostre telefonate, dico purtroppo perché mi piacerebbe sentirle di più, e andiamo a questo punto a come iniziano gli anni nei conti pubblici siciliani. Faccio un brevissimo riepilogo. La Sicilia è all'esercizio provvisorio, i conti non tornano, il governatore Crocetta, non ricordo tutti, alla quarta giunta aveva annunciato 400 milioni di tagli decisi appunto, ma nonostante tutto i conti non tornerebbero, non tornerebbero. Ci sono poi polemiche aperte perché i fondi ricevuti da Bruxelles ma non versati al terzo settore, Bruxelles non li vuole dare rispetto all'utilizzo che è stato fatto di questi fondi, ma ne avevamo già parlato. C'è il problema di Riscossione Sicilia, di cui ho dato i numeri all'inizio. Tentiamo di capire come stanno davvero le cose con l'assessore all'economia della Regione Sicilia, Alessandro Bacei, che ringrazio di essere collegato con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno. Allora, ci fa capire come stanno le cose, perché l'impressione è che si passi sempre di voragine in voragine, o sbagliamo noi? Guarda, io penso che le cose stiano cambiando neanche troppo lentamente, nel senso che ormai con l'ultimo finanziario, quindi con l'ultimo anno solare, sono stati fatti più di 800 milioni di contenimento della spesa, chiamiamolo così, al bilancio. Il disavanzo era ben maggiore, perché insomma era oltre 3 miliardi, però è anche vero che la Sicilia nel corso degli anni, anche per via dell'immagine un po' sprecona che aveva, ha subito una serie di torti da parte del governo nazionale, torti che sono stati riconosciuti anche da un paio di sentenze della Corte Costituzionale, per cui rispetto alle altre regioni a tutto speciale sicuramente ha avuto un trattamento peggiore, che ora è stato riconosciuto anche dal governo nazionale stesso, per cui si stanno facendo delle trattative di fatto per rivedere le norme di attuazione dello statuto, per riallineare un po' la Sicilia alla situazione delle altre regioni di statuto speciale, che ricordiamolo sono differenti da quelle di statuto ordinario perché hanno più funzioni trasferite, per cui un confronto fra tutte le regioni non è possibile, bisogna farlo fra due categorie, no, statuto ordinario e statuto speciale. La Sicilia, andando a vedere le entrate tributarie pro capite, è nettamente svantaggiata rispetto alle altre regioni. Lei pensi che la Sicilia, a fronte di entrate tributarie pro capite di 2.000 euro, ne ha la metà di quelle che la sa bene, che ne ha quasi 4.000, per cui insomma è vero che la Sicilia nel tempo ha avuto questa immagine sprecona e quindi diciamo se ne è un po' tirata addosso, è anche vero che ha avuto dei torti e a questi torti si sta cercando in qualche modo di porre rimedio. Però voglio dire, sì, a netto del fatto che ovviamente di risorse fiscali se il reddito medio pro capite è più basso, e questo non si discute, il disastro del sud e i problemi della Sicilia non li nega nessuno in termini comparati rispetto al resto d'Italia, però è anche vero che se l'efficienza della riscossione è quella dei numeri disastrosi di Riscossione Sicilia, un problema di amministrazione, inefficienza eccetera, non è mica colpa nostra, dei giornalisti che ne parliamo, c'è ed è radicato nei numeri, perché ripeto, se si passa di anno in anno a perdite delle riscossioni in termini comparati sempre a doppia cifra, cioè quest'anno nel 2014 la discesa della capacità di riscossione, cioè del raccolto a Palermo, era del 31,7% rispetto all'anno prima. Questi non sono i numeri della crisi, questi sono i numeri dell'inefficienza della macchina amministrativa, assessore, o no? Stiamo parlando di due cose diverse. La riscossione Sicilia fa riscossione coattiva e non la riscossione spontanea, lo so. Che è di gran lunga la fonte più importante. Sulla riscossione coattiva il problema è abbastanza complicato, perché confrontiamo Riscossione Sicilia, che è una regione, con Equitalia, che ne ha altre 19, e va a compensare regioni che hanno difficoltà di riscossione, che poi sono sempre quelle del sud, con regioni molto ricche, per cui avendo 19 regioni a disposizione e comunque lo Stato con le spalle larghe dietro, chiaramente Equitalia riesce a nascondere certi problemi molto meglio di quanto possa fare Riscossione Sicilia, che può contare sulla sola riscossione coattiva della Sicilia. Detto questo, sicuramente le performance di Riscossione Sicilia debbono essere migliorate, però questo non può che passare di nuovo attraverso degli accordi con lo Stato, perché vi faccio un esempio: Equitalia può contare sul sistema informativo della fiscalità e accedere banche dati, Riscossione Sicilia non può, per cui teoricamente dovrebbe rifare degli investimenti tecnologici da sola, o dovrebbe ricostruire delle banche dati che non può neanche ricostruirsi. Per cui secondo me di nuovo uno degli errori della Sicilia è stato cercare di voler risolversi da sola dei problemi senza il supporto del governo nazionale, laddove per certe cose questo non è assolutamente possibile. Senta, lei prima parlava dell'autonomia speciale. L'autonomia speciale contraddistingue l'originalità dell'esperienza amministrativa e il presidio della sua peculiarità nel nostro ordinamento, e riguarda oltre alla Sicilia solo poche altre regioni e le due province autonome nel nord del Trentino Alto Adige. Detto questo, ma lei resta ancora convinto che l'autonomia speciale sia una caratteristica da difendere, che abbia storicamente, a distanza di tanti decenni da quando venne adottata e riconosciuta in Costituzione, una legittimazione, oppure come invece io e non troppi altri, ma insomma siamo convinti da tempo, numeri alla mano, sarebbe meglio abolirla e ridiscutere un pochino tutto. Discutere un pochino tutto significa che, come si vede dalle stesse cifre, lei non ci ha richiamato molte cifre, ma ci ha detto è tutto da ridiscutere ogni volta col governo. In realtà voi andate avanti perché ogni volta il governo pro tempore mette mano, oppure voi fate un contenzioso che vi dà ragione e mettete mano anche voi alle contestazioni reciproche delle somme dovutevi, e in questo caso stiamo parlando di 1.400.000.000 per l'anno a venire, non di bazzecole. Allora, questa autonomia speciale, che in realtà consente, aggiungo, di tenere in piedi un bilancio che per la parte patrimoniale, se fosse certificato con criteri di mercato, lo sa meglio di me che non starebbe in piedi, ma non starebbe in piedi per poste molto molto rilevanti. Allora, non è meglio ridiscuterla in concreto, secondo lei, assessore? Allora, innanzitutto voglio essere fatto nel passato è proprio quello di andare avanti a forza di contenziosi, e stiamo cambiando linea, non è questo, anche la Corte Costituzionale ce lo indica, che bisogna scendere a patti e non andare avanti per contenzioso. Con lo Stato stiamo facendo un discorso strutturale, siccome sono stati dei torti non vogliamo più andare di volta in volta a chiedere soldi, ma bisogna rivedere le norme di attuazione dello Statuto rimettendo mano a quei torti subiti. Cioè, il problema è che nel tempo il gettito fiscale si è eroso per una serie di motivi che vanno al di là dell'economia e che non dipendono né dallo Stato né dalla Regione, ma che sono frutto di riforme fiscali volute negli anni precedenti, e quindi la Sicilia si è vista sparire qualcosa come 5-6 miliardi di euro di gettito. Per cui è necessario rimettere mano proprio alle norme di attuazione dello Statuto in maniera strutturale, proprio per evitare che tutti gli anni si debba dipendere dal governo di turno. Detto questo, l'autonomia speciale secondo me in certe materie va sicuramente rivista, tant'è vero che noi con le ultime finanziarie siamo andati avanti cercando di riallineare una serie di normative con le normative dello Stato, e sto parlando della parte della politica, del pubblico impiego e quant'altro. Su altri temi ci sono delle caratteristiche, delle peculiarità che vengono dalla storia delle regioni a statuto speciale, in cui ha senso che le regioni a statuto speciale abbiano un'autonomia dal punto di vista legislativo. Poi c'è chi la usa molto bene, come è il caso di alcune regioni del nord, chi l'ha usata negli anni meno bene, come le regioni del sud, ma questo secondo me non è un problema di autonomia, è un problema di come sia utilizzata. Alla sì, base, però esiste anche un problema comparato di chi non capisce nel resto del sud, guardando al sud, e nel resto del nord, guardando il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, i criteri residui storici per cui giustificare differenze di regime così profonde. Esiste un problema rispetto ai colleghi suoi nelle altre regioni, o no? O secondo lei storicamente ha ancora senso? Ma guardi, ho detto che non sono siciliano. No, ma si sente anche. Esatto, lei è prestato. Sono prestato alla Sicilia. Ripeto, secondo me su alcune materie si sta facendo un'opera di riallineamento, di recepimento della normativa. Vabbè, mi pare di capire. Lei sarebbe disposto a ridiscutere. Naturalmente non può dirlo e lo capisco come. Secondo me su alcune materie andrebbe ridiscusso, su altre potrebbe aver senso mantenere la propria autonomia. Insomma, va visto di caso in caso. Va visto di caso in caso. Io penso invece che, tanto per tornare su un argomento che trovate sui giornali di oggi, e cioè se pensiamo alla riforma della Costituzione, di cui comunque nel 2016 saremmo chiamati con referendum consultivo di approvazione, anzi no, non consultivo, con referendum confermativo a esprimerci, la mia opinione è che quella era l'occasione per discutere nel titolo quinto anche le autonomie speciali. Io ero per superare questo regime, ero anche per un accorpamento molto serio delle regioni, non solo io ma i parlamentari della maggioranza e dell'opposizione che erano convinti di questa linea non l'hanno vista recepita nei lavori di aggiornamento della Costituzione. Io credo che questa sia stata un'occasione persa, perché storicamente non è che si mette mano alla Costituzione molto frequentemente. E tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che ieri, per esempio, Eugenio Scalfari ha scritto un editoriale nel quale chiede per la validità del referendum confermativo addirittura l'introduzione di un quorum relativo a 2/3 dei votanti. Capite? E per il referendum confermativi non c'è il quorum. La mia opinione è che un liberale vero dovrebbe chiedere l'abolizione dei tetti di validità per qualunque referendum, perché a un certo punto bisogna accettare l'idea che in una società democratica e libera i referendum contano per l'effetto di coloro che vanno a votare. Chi non vuole andare a votare non è un dovere, capisci? Non bisogna trascinarlo coi carabinieri, decide chi va a votare. Lui invece lo vuole elevare ai 2/3 del totale dei votanti il quorum di validità. Naturalmente perché? Perché vuole tenere la Costituzione così com'è. Allora, ecco che l'Italia dei conservatori è molto più ampia ed estesa di quanto non si creda. Senta, Assessore Baccelli, voi uscite dall'esercizio provvisorio oppure ci sono anche problemi politici che non mi sembrano del tutto risolti nei rapporti tra le forze anche della maggioranza e il Presidente Crocetta, per cui l'esercizio provvisorio in realtà è l'inizio di un 2016 che resterà problematico anche per la finanza pubblica di cui lei porta la responsabilità? Allora, innanzitutto noi abbiamo presentato un bilancio, una finanziaria, un bilancio definitivo, quindi vale per tutto l'anno, e quindi non volevamo andare a esercizio provvisorio, quindi né io né il Presidente Crocetta. Però siamo arrivati un po' lunghi coi tempi, perché abbiamo dovuto aspettare l'esito della legge di stabilità nazionale, che come lei sa dava 900 milioni alla Sicilia, per cui abbiamo depositato di fatto il bilancio alla vigilia di Natale. E però voi avanzate un altro mezzo miliardino, questo è il punto. Ma ripeto, non è che stiamo chiedendo niente, sono la fine della, anzi, ripeto, anche così noi arriveremo a una cifra anche che è lontana così di quella della penultima giornata speciale, per cui non è che stiamo ricevendo dei favori. Comunque lei dice che l'esercizio provvisorio è una faccenda tecnica, ma politicamente andiamo avanti. Sì, l'esercizio provvisorio è stato voluto in una riunione dei capigruppo, si sono sentiti più tranquilli ad avere 2 mesi di tempo per discutere della finanziaria, del bilancio, che ripeto sono già definitivi, per cui insomma una cosa che abbiamo accettato. L'importante è che noi avessimo presentato un bilancio che è definitivo, questa è la cosa importante. Va bene, allora io ringrazio l'assessore Baccelli, rimango della mia opinione, ma continueremo a informare delle vicende siciliane dando voce ai siciliani. Credo che la stampa nazionale non lo faccia quasi per niente, a dire la verità, e secondo me è un grande limite dell'informazione nazionale. Però voglio segnalarvi una cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima sul Fatto Quotidiano del lunedì, secondo me imperdibile per tutti i cittadini e contribuenti italiani, la summa, cioè la segnalazione sintetica dell'aggiornamento delle migrazioni e del trasformismo dei parlamentari rispetto ai gruppi in cui sono stati eletti e sono presentati alle elezioni. Siamo arrivati al 31 dicembre 2014, cari ascoltatori, a 325 migrazioni tra Camera e Senato in poco più di 30 mesi, per un totale di 246 parlamentari interessati che hanno cambiato chi 1, chi 2, chi 3, chi 4, chi 5, chi addirittura 6 gruppi nell'arco di 30 mesi. Ecco, questo per dare l'idea di come sono chiare le idee nella politica italiana. Il titolo del Fatto Quotidiano di oggi è: record nel 2015, mai così tanti. Volta Gabbana. Naturalmente noi siamo rispettosi della libertà dei parlamentari di cambiare idea, io credo la verità, però insomma sono contro i limiti di mandato. Penso che uno giustamente cambia idea, però quando è stato eletto da una parte, magari cambiando idea lascia anche libero il seggio e si torna a votare. Questa è la mia banale idea, ma non perché ci sia un mandato imperativo, ma c'è un limite oltre il quale la libertà di coscienza diventa libertà di sopravvivenza per appigli politici del parlamentare in questione e non riguarda più i suoi elettori. Allora, ancora un po' di telefonate da parte vostra. Cominciamo con Giacomo da Messina. Proprio Giacomo, si parlava di Sicilia poco fa. Sì, l'ho sentito. Io volevo soltanto dire che personalmente credo che le province abbiano fatto sempre meglio delle regioni e che il discorso è stato fatto con una certa leggerezza, quello dell'abolizione delle province. Io le posso dire che dalla provincia di Messina posso controllare tutti i giorni che il contatto tra i cosiddetti deputati regionali e i cittadini è sempre più lontano, sempre più lontano. È così nelle chiacchiere che si fanno, proprio chiacchiere da bar, è bene ritornare alla tripartizione arabo-normanna. Sì, naturalmente, perché la Sicilia è una regione che ha bisogno dell'autonomia e dell'autonomia speciale. Però ha tre economie che sono completamente diverse e che devono essere tenute assieme da un organismo, ma si deve dare tutta la libertà di poter... Quindi lei difende in realtà il vecchio ordinamento provinciale, ma ne propone tre, con le tre diverse economie che sono quelle arabo-normanne. Giacomo, sarebbe un discorso lungo, per così dire. Abbiamo ancora Angelo da Venezia, rapidissimamente. Angelo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Un motivo leggero, riguardo al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, sì, molto uguale a tantissimi presidenti precedenti, io sorridevo già il giorno prima, quando Radio 24 annunciava nei suoi notiziari che il Presidente della Repubblica, invece rispetto ad altri che invece erano in vacanza, sì, invece lui era a Roma a preparare il suo discorso di fine anno, approfondiva. Ma io penso a tutti i turibolai, a tutti i giornalisti che ne parlano, a tutti i correttori siamo un po' in troppi a chiacchierare, per così dire, per un intervento di quelli che secondo me non lascerà il suo segno nella storia, come tanti altri, per carità. Allora, continuate con Radio 24, appuntamento con me oggi pomeriggio alle 4:30 la versione di Oscar, e poi ci sentiamo domani mattina alle 8:15 ovviamente con Attenti a noi due.